Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quel giorno, quando il cecco, che era il vero collante del gruppo, chiamò me e mio fratello dicendo: ragazzi, devo comprare una macchina, andiamo a cercarla. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato quello che sarebbe successo. Ciao a tutti, sono Andrea da Firenze, ho 46 anni e sono un artigiano. Il termine zingarata, anche se forse non è registrato dall'Accademia della Crusca, però è un termine che, anche se non è chiarissimo, subito rimanda ad un'immagine abbastanza chiara. Un gruppo di amici, di persone che salgono su un mezzo e vanno in giro a fare un po' i cialtroni e a divertirsi. È un termine che non so esattamente da dove arrivi, ma che fotografa esattamente la storia della puntata di oggi di Andrea. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui. La cosa di cui parliamo oggi non è tanto della zingarata, ma è l'auto della zingarata. Quasi tutte le persone che sono cresciute in un gruppo di amici e che con quel gruppo di amici hanno fatto delle cose, quelle cose le hanno fatte con un'automobile, con un mezzo, che fosse il proprio, che fosse quello dell'amico, della mamma o del papà dell'amico. Quel mezzo rimane un po' nell'immaginario comune, che non è la moto propria, che non è il motorino, è proprio un'auto che ha quasi una personalità nei nostri ricordi e nelle nostre zingarate. 349-238-6666. Sandro scrive: io rubavo la Talbot Trench, che è una macchina fantastica, era una macchina squadrata dietro, che sembrava tipo un fiorino, la Talbot Trench di mio zio che faceva l'idraulico. Ci andavo in giro per tutta Bologna con gli amici, seduti tra tubi e chiavi inglesi. E poi scrive: era verde, questo era un dettaglio fondamentale. Giulia: i miei genitori, professori di lettere e filosofia, fricchettoni nell'animo, non avevano un'auto ma solo un furgone Ford camperato. Ci andavamo in discoteca la domenica pomeriggio. 349-238-6666, l'auto delle vostre zingarate, qualunque mezzo fosse, che fosse vostra oppure no. Ascoltate la storia di Andrea, perché l'auto delle loro zingarate era un'auto veramente particolare. Non ricordo bene quando tutto ebbe inizio. So con certezza, però, quale fu la svolta che rese quello che mi accingo a raccontare il periodo più divertente e scanzonato che io ricordi. Firenze, fine anni 80. Un gruppo di amici eterogeneo e strampalato per età ed estrazione, ognuno con storie personali e professionali diverse tra loro, ma con in comune la voglia di evadere dalla realtà quotidiana, dai soliti problemi, lavoro, famiglia e studio. Quel giorno, quando il cecco, che era il vero collante del gruppo, chiamò me e mio fratello dicendo: «Ehi, devo comprare una macchina, andiamo a cercarla!», nessuno di noi avrebbe mai immaginato quello che sarebbe successo. Il gruppo, diciamo così, si forma grazie a una piccola squadretta di calcio del quartiere. Quello è il gruppo principale, al quale, grazie a amici dell'allenatore, si inseriscono vari personaggi insospettabili, tipo avvocati, insegnanti di liceo e tante altre persone, ecco. Dopo un pomeriggio trascorso di concessionaria in concessionaria, entrammo in un piazzale, dove ad attenderci c'era il solito paffuto e sollecito venditore. Mentre zelante magnificava auto, viste e riviste, la nostra attenzione venne attirata da quello che per tutti sarebbe diventato il torpedone. In un angolo, ricoperta quasi per metà da edera arrampicante, si riusciva ad intravedere la sagoma della mitica Fiat 1800 L President, un'auto di rappresentanza anno 1959. Trattasi di una vettura dalle dimensioni di circa 10 metri di lunghezza per 4,5 di larghezza, omologata per 11 posti, ben allineati su tre file. Neanche il tempo di guardarci, di consultarci. Per noi, quella era l'auto giusta, immaginandola come fonte di ispirazione delle nostre prossime avventure. Il concessionario, completamente basito e con estremo pudore, disse: «Ah, quella! Quella l'usava il sindaco La Pira. Ha ancora le gomme originali, guardate, nere con fascia laterale bianca». Poi, ridendo dall'incredulità, aggiunse: «Ma siete sicuri?». Costo dell'operazione: 1.200.000 lire, revisione inclusa. Due ore dopo, espletate tutte le formalità, uscivamo in strada con il mitico torpedone. E al venditore, mentre ci salutava con la manina, si leggeva in faccia la certezza di averci raggirato, mentre per noi quello rappresentava l'affare del secolo. La sera stessa decidemmo di testare le potenzialità del mezzo, compiendo una sorta di viaggio inaugurale, direzione mare, con Cecco alla guida e noi altri, 10 passeggeri in tutto, a fare il tifo. Il torpedone in autostrada mostrò subito i suoi limiti meccanici. Ciò non di meno, tra minacciosi scricchiolii e paurose sbandate, si lanciò alla folle velocità di 130 km orari, praticamente una bomba viaggiante con dei pazzi a bordo. All'altezza di Prato, i primi gravi problemi. Via di botto tutte le luci, interne ed esterne, ma noi a gridare «Dai, Cecco, dai, pigia, pigia di più!» Fatti pochi altri chilometri, via anche i tergicristalli ed essendo una serata piovosa, era come andare alla cieca. Un autentico disastro, conclusosi con una mesta ritirata quasi a passo d'uomo e considerazione finale che il torpedone era utilizzabile solo per gite a corto raggio, meglio se in città. Tuttavia, il problema più grosso che il maligno venditore aveva abilmente nascosto con tonnellate di deodorante era l'insopportabile, fastidioso tanfo di marcio che proveniva dalla tappezzeria del nostro singolare veicolo. Dopo qualche ora, svanito l'effetto del deodorante, l'odore di muffa cominciò ad invadere l'abitacolo, rendendo la nostra permanenza in auto intollerabile, pur avendone provate di tutte tanto da trasformare il torpedone in un arbre magique gigante. Ogni sera, l'uscita per le vie del centro si trasformava in una comica parata ed eravamo diventati una vera e propria attrazione. Era divertente vedere le facce della gente al nostro passaggio. Chi rimaneva a bocca aperta e chi si piegava dal ridere. L'eleganza del mezzo antico non passava inosservata. Sentirsi al centro dell'attenzione era esaltante anche per un tipo riservato, come me. Una volta rimasti fermi per un guasto meccanico, fummo trainati da 4 motorini in Piazza Duomo. Non c'era ancora il vincolo della ZTL, cioè con le macchine si poteva entrare in qualsiasi parte del centro, e quindi con la nostra mitica torpedone in Fiat 1500 entravamo fino a Piazza Duomo, ecco. E ormai eravamo diventati una mezza celebrità, in quanto tutti ci riconoscevano come quelli dalla macchina assurda e improponibile. Nel frattempo la voce si era sparsa, le nostre allegre disavventure avevano portato il gruppo a lievitare progressivamente in fama. Ogni sera, al ritrovo in piazzetta, c'era sempre qualche personaggio nuovo incuriosito. Ma il torpedone era una questione nostra, ed eravamo infastiditi dalla prospettiva che altri volessero appropriarsene. Volevamo che ne facesse parte unicamente il gruppo storico, e ciò escludeva inevitabilmente anche le donne. L'episodio culminante si verificò quando, con il Cecco vestito da arabo e noi da guardie del corpo, ci presentammo davanti all'elegante Hotel Savoy con il torpedone. Il corteo era così composto. 2 amiche vestite da odalische, lanciando petali di fiori, preannunciavano l'arrivo dell'emiro, seguito da cotanta scorta. Riuscimmo incredibilmente a farci aprire la suite. Potrei stare qui a narrare tanti altri episodi accaduti in quei mesi. Ma quando il torpedone, tra nuvole di fumo e scintille, lanciò come una saetta il suo motore per strada, fu chiaro che le nostre zingarate stavano per volgere al termine. Lo ricordo come un periodo fantastico e l'amicizia saldata in quei mesi tra i passeggeri del mitico mezzo perdura tuttora. Ripenso spesso alla faccia del rivenditore. Già, se fosse uscito con noi sul torpedone anche una sola volta, avrebbe capito che il vero affare era stato il nostro. Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado con gonfie vele, a gonfie vele, a gonfie vele, voglio proprio vedere. Voglio proprio vedere, cioè voglio proprio vedere come va a finire. Bye. Inutile dire che leggendo la storia di Andrea si capisce perché è quella splendida saga che è Amici miei è ambientata proprio in Toscana, a Firenze. Sembrano usciti da un film di Monicelli, Andrea, il cieco e tutti gli altri. E la sua storia mi ha regalato la stessa sensazione che mi aveva regalato il film la prima volta che lo vidi. Una strana forma di invidia per quell'amicizia goliardica che mi sarebbe piaciuta replicare con i miei amici. Un'amicizia profondissima, basata su un comune senso dell'umorismo, che nel suo non prendere nulla sul serio, prende in giro proprio la serietà della vita. Queste forme di amicizia goliardica non sono così facilmente replicabili, non so il perché. Forse perché questo tipo di alchimia tra persone è molto raro che si formi. Forse perché è difficile da tenere viva, non lo so. Forse è una questione culturale e in alcune zone dell'Italia o del mondo è più facile che si crei rispetto ad altre. Eppure ogni gruppo di amici che si rispetti ha avuto il proprio mezzo di trasporto. Magari non assurdo e identitario come la Fiat 1800L President del 59, ma se ripensiamo alla nostra giovinezza c'è un'auto che ricordiamo in maniera particolare, anche se non era la nostra, ma era di qualcuno dei nostri amici che l'aveva comprata o ereditata o anche solo presa in prestito dalla mamma. Io ne ricordo almeno un paio. Una era una vecchia 126 azzurro carta da zucchero della famiglia Martelli di Romentino. I due fratelli, Maurizio e Massimiliano, dopo che il secondo aveva preso la patente, erano autorizzati ad usarla e a caricare noi amici. Come tutti i gruppi di amici, anche noi avevamo stabilito una sorta di record di numero di persone salite su quella povera auto. Riuscimmo ad entrarci in 6, che non sembra un numero esagerato, ma vi assicuro che in fondo lo era se si considera che quella era solo una Fiat 126 e che il più grande dei fratelli era alto 1,90 m. Altezza che gli aveva causato una grave scogliosi e che lo obbligava a indossare un busto di gesso. Quando avevo preso io la patente, mia mamma mi aveva concesso di guidare la sua auto, una Peugeot 205 griffata Lacoste, bianca con il tettuccio apribile e una striscia verde lungo la fiancata che finiva ovviamente con il famoso coccodrillo. Ci andammo in montagna a festeggiare un capodanno, in 5 sull'auto e in 16 in casa, che ha 2 stanze e un divano letto tuttora. La Peugeot 205 Lacoste la usavamo per fare i freni a mano sul piazzale ghiacciato della funivia di notte, ma anche come trasporto eccezionale, visto che una sera ci infilammo un intero albero di Natale completamente addobbato che, diciamo, prendemmo in prestito una notte dalla panetteria della piazza e ce lo portammo a casa in modo da averla addobbata per quei 5 giorni di vacanza. L'albero poi fu ovviamente regolarmente restituito, sempre grazie alla Peugeot 205 Lacoste, il 3 di gennaio, giorno prima della partenza. E proprio in quell'occasione, la sera di Capodanno, la passammo in una discoteca molto nota che è all'inizio della valle della Valsesia, il Maneggio di Romagnano Sesia. Ci andammo con diverse macchine, compresa la mia ovviamente, e visto che Gabriele, il guidatore, l'autista dell'andata, era completamente ubriaco, al ritorno guidai io, unico astemio, ma anche 17enne. Le auto con cui ci siamo divertiti sono quelle che ricordiamo con più affetto. E chissà perché, a ripensarle adesso, sono tutte auto poco eleganti o poco confortevoli. Eppure sembrano tutte una limousine. Sembrano tutte una Fiat 1800L President. Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Era chiaro che questa storia avrebbe stimolato messaggi, perché è vero, cioè è molto banale, ma tutti quanti hanno avuto un'auto di riferimento, che certo non era la Fiat 1800L, ma ad esempio Alberto: io ho 16 anni oggi e le zingarate le faccio con la macchina 50cc del mio amico Sergio, sabato siamo riusciti a salirci in 8. Questa secondo me è una iattura, quella di queste macchinine nuove minuscole che vanno in giro, ma tant'è. Giorgio: nessuno di noi aveva un'auto, quindi le zingarate le facevamo con quella di mia mamma, era una Visa 1000, sembrava inchiodata e invece era una macchina da rally. 349 238 6666. Credo che però davvero chiunque avrebbe voluto avere quella macchina lì, la Fiat 1800L President. Pronto, Andrea? Sì, ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene, tutto bene. Dove ti trovi in questo momento? Sono nel mio laboratorio, sto lavorando, ma 5 minuti ci sono. Ecco. Mi ricordi che cosa fai esattamente? Io sono uno dei pochi rimasti qui a Firenze che rilega e restaura libri. Ma e questo è un lavoro che resiste, nel senso che riesci a viverci, che è una di quelle nicchie che funziona ancora molto bene? ti spiego, questa è l'attività principale, cioè iniziale, diciamo, meglio dire iniziale, però io e mio fratello, che abbiamo, diciamo, rilevato l'attività da mia madre, abbiamo un po' diversificato, ecco, si fa anche altre cose. Cioè, tipo, di che tipo? Tutte la serie di diari, quaderni, servizi da scrivania in pelle. Ah, e ce la caviamo con un po' di esportazione all'estero, ecco. Ah, quindi non vendete, non avete, avete un negozio, avete un punto, sì, di vendita? Negozio e laboratorio, sì, sì. Dove siete esattamente a Firenze? Firenze, zona centrale, vicino alla stazione. Quindi c'è grande passaggio turistico, immagino, sì, anche, sostanzialmente. Sì, sì, anche. Andrea, invece andiamo a questo oggetto meraviglioso. Io l'ho cercato dappertutto su internet e ho trovato una foto di una Fiat 1800 L President che in realtà non sembra così lunga perché la foto è presa un po' di traverso. Magari dopo la carichiamo anche sul profilo Facebook. Però, insomma, una macchina di, dicevi, 11 metri, 10 metri e mezzo. Sì. Aveva la particolarità delle 3 fili di sedili più un bagagliaio sia davanti che dietro, infiniti. Cioè. Quanto è durata questa macchina? Quanto ci siete andati in giro? Praticamente 8 mesi. Ah, perché, pochissimo proprio, neanche un anno di vita. Perché le condizioni erano veramente disastrose. Però è divertente immaginare questo gruppo di amici che va in giro per la città e che viene riconosciuto proprio perché immagino che fosse un segno di riconoscimento fortissimo, no? Ma infatti tutte le sere erano scorribande varie cercando le imprese più impossibili. Mi ricordi una cosa particolare che avete fatto con la macchina? Qua avevi aggiunto anche nel tuo racconto che la velocità massima raggiunta 130 all'ora, ma raggiunta una sola volta, mi pare di capire, sull'autostrada quella notte, giusto? Esatto. E record passeggeri a bordo 18 persone. Sì. Per un breve tratto, però ce l'abbiamo fatta. Non siete mai stati fermati da vigili urbani, forze dell'ordine? Ma praticamente tutte le sere. quando sere che venivamo in centro c'era il controllo della polizia. Sì, era, ormai eravamo abituati. E l'espressione qual era di fronte a un mezzo come questo? Ma ti posso raccontare brevemente, una sera un poliziotto provò a entrare dentro e uscì fuori con il naso tappato scoppiando a ridere, ecco. Perché l'odore di cui parli rimase... Sì, era indelebile, era. Invece, scusami, quando dici che da questo circolo ristretto erano escluse le donne... Sì, assolutamente. Chiaramente, categoricamente. Vuol dire che nessuno ci ha mai rimorchiato con quella macchina? Ma no, praticamente no, perché stavamo noi in compagnia, noi tutti ragazzi e basta. Ma più o meno, scusa, non sono proprio un genio in matematica, allora diciamo, mi hai scritto fine anni 80, fine giusto? Anni 80. Tu, per qui... esattezza tra l'87 e l'88. Insomma, quegli 8 mesi lì, mi sembra di capire, sì, non di più. Sì. Tu quanti anni avevi? Io 22. E tuo fratello invece? Siamo gemelli, uguale, 22. Quindi voi siete gemelli che fanno lo stesso lavoro anche? Sì, si lavora insieme. L'età media era quella lì, quindi era ventenni oppure... L'età media, ma in realtà all'epoca io e mio fratello eravamo i più piccoli, perché si andava dai 22-23 anni fino anche a 40, ecco. Per quello dico che era un gruppo un po' strampalato, perché cioè, veramente di tutti i tipi di persone, avvocati, dottori, studenti, cioè... Un mix incredibile. Che fine hanno fatto gli altri? Ma senti, il gruppo storico continuiamo ancora a vederci, ovviamente, con famiglia e tutto il resto. Qualcuno si è perso per strada. Ma quindi... Però sostanzialmente, ecco, ci teniamo ancora in contatto. Quindi ricordate quei giorni, ricordate quella macchina. È un po' un punto di riferimento aggregante. È il punto di riferimento iniziale, diciamo, che per gli anni... successivi, ecco, per gli anni che sono venuti fino a tutti gli anni 90, noi abbiamo continuato, anche se in maniera un po' più ridotta, le nostre uscite, i nostri scherzi e tutto il resto. Invece il sindaco Lapira, di cui insomma pareva essere stata la macchina di rappresentanza, no? Così ve l'ha venduta il concessionario. Così diceva, esatto. Sindaco Lapira, correggimi se sbaglio, era un sindaco storico di Firenze, giusto? Sì. Diciamo quello più famoso, ecco, che ci sia stato. Che cos'era DC, ovviamente? Non ricordo, mi sembra di estrazione cattolica. Invece avete una macchina, un mezzo di riferimento adesso con cui andate tipo in vacanza o fate... No. Quello no, però in vacanza andiamo ancora insieme. Sì, sì. Che macchina hai, Andrea, per curiosità? Perdonami, perché oggi proprio l'idea è quella di chiedere agli ascoltatori qual era la loro macchina di riferimento per le zingarate e qual è la vostra adesso. Ma senti, l'ho cambiata proprio la settimana scorsa. Che macchina hai preso? Che macchina avevi e che macchina hai preso? Si può dire? Ma certo che si può dire, figurati. Una Nissan Juke. Una Nissan Juke? Ma non è un po' da ragazzo quella macchina? È quella strana che sembra un rospo. Infatti la usa mia figlia. Ah, ok. No, ha scelto lei. Andrea, senti, so che è un immaginario ridotto il mio, ma a me piace immaginarvi con la 1800L andare in giro per i paesi della Toscana a fingere di buttare giù le chiese come in Amici miei. Qua tutto giù, qui passerà l'autostrada. Ti ringrazio molto, Andrea, per la chiacchierata e per il racconto. Ciao, in bocca al lupo tutto. Ciao, grazie mille. 349-238-6666. Paola mi scrive: zingarate infinite dalla Toscana alla Riviera Adriatica col fiorino di mio padre in bianchino. Chissà perché gli in bianchini hanno sempre avuto il fiorino. Adesso la borsa, ma chi lo sa. Se c'è, bene, se non c'è, amen. Ci sentiamo dopo. È esattamente nel suo laboratorio, Andrea, anche se forse avrei preferito immaginarlo sulla Fiat President. Invece no, è nel suo laboratorio d'artigiano a Firenze ed è... un incrocio tra un sarto e Gutenberg. Ha alle spalle una serie di... credo che sia stoffa, pellami. Immagino le copertine, cioè la parte che copre i quaderni e i diari, insomma, quelle che fanno. Lui ha su un grembiule azzurro bellissimo e tiene nelle mani una... credo sia una specie di tagliola, qualcosa che taglia, immagino, appunto, la pelle e la carta. Ma un dettaglio non trascurabile è che alla sua sinistra, su una specie di scrivania, ha due quaderni foderati in pelle e sopra, per tenerli belli schiacciati, un ferro da stiro. Zingarata, sostantivo femminile. Beffa condotta con spirito anticonformistico e goliardico. Etimo, derivato di zingaro. Data, secolo XX. Allora vedi che era sul dizionario. Quindi l'Accademia della Crusca l'ha passata nella... non nella Crusca, nella... come si chiama? Nel setaccio, no? Cioè, sì, vabbè, il devoto eolico, quello che... Però l'Accademia della Crusca arriva da lì, no? Dal setaccio che toglie la farina dalla crusca. Niente, di là delle facce, proprio avete presente? 349-238-6666. Silvio, a proposito di zingarate, scrive: la macchina delle zingarate della mia compagnia era una Citroen Pallas. Citroen Pallas, quella lunga e... cioè non lo squalo era un'altra, la DS mi pare fosse lo squalo. Citroen Pallas, quella che si alzava e si abbassava a comando. Sembravamo dei capo carovana gitani, a proposito di zingarate. E poi Alessia, finalmente una donna. La prima vacanza con le amiche la facemmo con la Ford Escort Station Wagon di mio padre. Facemmo un incidente innocuo ma definitivo al casello dell'autostrada. Al mare ci andammo in treno. Mi piace il termine definitivo, che indica esattamente che la vacanza è finita lì. Si parla di fare delle zingarate, dove appunto, come spiegava Alessandra De Luca, la zingarata si intende andare in giro con un mezzo meccanico, di solito, che è un'automobile. E Andrea ci ha mandato questo racconto in cui ci spiegava che le zingarate sue della compagnia le facevano con questa automobile, che era la vecchia automobile del sindaco di Firenze, sindaco Lapira, che era una Fiat, andate a cercarvela, Fiat 1800L. Aldo, coi soldi guadagnati a 20 anni, comprai una vecchia Audi 80, prima serie, spigolosa come un riccio, bellissima. Certo, me la ricordo benissimo. 349-238-6666. Visto che oggi con la storia di Andrea parlavamo di automobili, nel suo caso del torpedone, di questa mitica Fiat 1800L President, noi che saltiamo un po' di palo in frasca, ci siamo detti che cosa potremmo raccontare nella seconda parte del programma per capire il rapporto con le automobili delle persone. Perché non scegliere un pilota? Perché non scegliere un pilota italiano e uno che ha fatto un numero di gran premi in Formula 1 esorbitante? Quasi record. E quindi abbiamo trovato e ringraziamo per essere qui Jarno Trulli. Buongiorno Jarno. Buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene? Benissimo, grazie. Posso chiederti dove sei adesso, Jarno? Io sono a casa, sono in Svizzera. a Lugano. Tu di fatto hai chiuso con la Formula 1, chiuso insomma, sei in stand by, in pausa con la Formula 1 dal 2011, giusto? Sì, direi che ho anche chiuso, perché a questo punto non penso di poter tornare. Ok, hai ancora a che fare con volanti, acceleratori e cambi, oppure fai tutt'altro ora? No, di la verità no, mi occupo di tutt'altro, mi occupo degli affari famiglia, e poi ho una fiduciaria qui a Lugano, un immobiliare, quindi mi occupo di tutte cose che mi occupavo prima. Ho il vino, e quindi viaggio moltissimo anche per il vino, insomma le attività non mancano. Ti ho visto in delle foto con dei gran boccali di vino, delle coppe di vino in mano, vicino a delle botti, in qualche cantina. Eh beh, assolutamente, era probabilmente la mia cantina. Che tipo di vini fai? Sono appena rientrato. Noi facciamo vini della Podere Castrani dall'Abruzzo, quindi siamo Montepulciano d'Abruzzo Rosso, Trebbiano d'Abruzzo Bianco, ma abbiamo tutta una serie di vini che va dalla grappa al passito, insomma, spaziamo un po' su tutti i fronti. Dappertutto. Ti manca un po' quella cosa lì della macchina, della pista, dell'adrenalina, della velocità? No, a dire la verità no, anche perché forse ho fatto tantissimi anni sulla cresta dell'onda, e quando poi mi sono ritrovato a dover guidare una macchina non competitiva, uh-huh, ho capito che mi divertivo solo quando vincevo. Allora è stato meglio lasciare il volante agli altri e continuare a essere protagonista in altre team. Tu hai fatto 14 anni in Formula 1, Jarno, dal 97 al 2011, giusto? Sì. C'è stato un momento in cui ti sei detto, boh, io mi sono anche stufato? Beh, quando l'ho detto in effetti mi sono fermato. Quindi, ah, ok, quindi è coinciso. Mi sono fermato, ho capito che era il momento di lasciare spazio agli altri, perché non era più divertimento, era solo un impegno che però non portava grandi frutti. Uno che fa a questo punto direi una parte della sua vita, la fa diventare l'automobile, no? Nel senso, fino a 30, tu hai un anno più di me mi pare, tu hai 38 anni, giusto Jarno? Sì, quindi parlo per i 39. Ok, quindi fino a 37 sei stato un pilota di Formula 1 e sei stato un pilota e hai cominciato a 9 anni, giusto? Io ho iniziato, avevo 8 anni, ero proprio un bambino. Quindi tu 30 anni le hai fatto su mezzi con le ruote? Fatto 30 anni di attività, 30 anni di attività molto molto lunghi, impegnativi, con sicuramente grandi soddisfazioni, ho raggiunto obiettivi che erano insperati nella mia famiglia, quindi non mi posso solo considerare fortunato. Beh, indubbiamente. In 30 anni, cioè com'è che comincia uno a 8 anni? È lui che lo vuole o sono i genitori che in qualche modo gli fanno capire che quella può essere una bella cosa? Ma è un po' tutti e due, poi sai, queste cose nascono per caso, come fu anche per me. Iniziò per gioco e per passione di mio padre, e poi piano piano negli anni venne fuori il talento e la fortuna. Come si arriva in Formula 1 invece? Era il 97, giusto? Era la Minardi, sì. Giusto? Beh, non c'è un vero e proprio percorso, nel senso che l'unica cosa che posso dire è che si inizia quasi sicuramente con il go-kart. È un passaggio obbligato, perché innanzitutto si inizia da bambini ad avere un rapporto con il mezzo meccanico, sì, con le gomme, con la benzina, e da lì si sviluppano determinati meccanismi e soprattutto si evidenzia il proprio talento. Poi successivamente ci sono tanti altri passaggi che bisogna affrontare, passaggi molto difficili nei quali purtroppo entra in gioco non solo il talento ma anche il sostegno economico che... Certo. Essenzialmente dovrebbe venire dagli sponsor, perché per le famiglie, soprattutto per una famiglia come la mia, non era possibile. È impossibile. Però tu te la ricordi la telefonata o l'incontro in cui ti dicono, sai cosa, ti facciamo correre sulla Minardi? Eh beh, me la ricordo sì, perché in effetti è stata inaspettata. Io dovevo andare a correre in Formula 3000 in Giappone dopo aver vinto il campionato tedesco di Formula 3. Invece un giorno mi sono alzato e mi hanno detto, guarda, preparati perché... quest'anno debutto in Formula 1. Uno che corre per 30 anni su una macchina ha ancora voglia poi di guidare la macchina per i fatti suoi, cioè di quella sì, cultura dell'automobile ce l'hai. Io con la macchina, anche perché non sono un amante vero e proprio della velocità, io sono un amante delle sfide. Mm-hmm. Quindi intendo dire, tu giri in automobile, hai voglia di farlo, ti diverte ancora? La usi come mezzo, intendo dire, normale, come tutte le persone. Lo utilizzo come mezzo, essenzialmente ora sono focalizzato su mezzi che mi diano la possibilità di muovermi in completo relax con la famiglia, o con mezzi d'epoca, mi piacciono delle macchinucce d'epoca con le quali mi piace scorrazzare magari il weekend assieme alla famiglia. Sempre. Scusami, Jarno, tu vuoi dirmi che c'hai una station wagon? Io sì, bravissimo, bravissimo. E invece ti ricordi la tua prima macchina? La mia prima macchina fu quella di mia madre, non avevamo possibilità di poterne comprare una, quindi ho iniziato con la macchina di mia madre, per degli anni ho circolato utilizzando la macchina di mia madre. Quindi le zingarate, visto che di quello si parla nella puntata di oggi, le zingarate con gli amici, i giri, la notte, le facevi con la macchina di tua madre? Sì, sì, quando potevo, ecco, si andava a fare un giro con la macchina di mia madre. In quel caso ricordo che cercavo di imparare ancora la doppietta, che non serviva sulla macchina, ma speravo sempre di poterla utilizzare poi, di averla potuto utilizzare poi successivamente su delle macchine di Formula 3, che poi in effetti è successo. Perché, scusami, sulle macchine da corsa si fa la doppietta come sulla 500? A suo tempo sì, su macchine di Formula 3 eri obbligato. La doppietta, lo dici tu che cos'è la doppietta, che lo sai meglio di me sicuramente? Beh, la doppietta non è altro che un modo per sincronizzare il cambio, quindi le velocità delle due marce differenti che si vanno in generale a scalare, quindi essendo la marcia superiore è più lenta rispetto a quella inferiore, bisogna poi fare la doppietta per cercare di alzare il numero di giri motori per poter ingranare la marcia inferiore. Che detto male è una sgasatina durante la frizione, giusto? Mentre la frizione è schiacciata. In effetti è così. Jarno, e poi ti saluto e ti ringrazio. Mi dici che macchina era la macchina di tua mamma? Era una Clio. Ok, che beh, era una Renault, insomma, in qualche modo poi te la sei ritrovata, sì, in mezzo alle gambe. Io ringrazio tantissimo Jarno Trulli per la chiacchierata e la disponibilità. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Di niente, buona giornata. Ciao, grazie, ciao, buona giornata anche a te, grazie. Ciao. Ciao. So che è una perversione, però mi piaceva immaginare Jarno Trulli con la Renault Clio di sua mamma in giro per le strade di Pescara. Mi pare che lui sia, sì, beh, insomma, abruzzese, però mi pare sia proprio di Pescara. 349-238-6666 per chiudere la puntata sulle zingarate dopo la Renault Clio di Jarno Trulli. Marco, ereditai una 2 cavalli da mio fratello. Infatti dicevo, mancavano macchine tipo 2 cavalli o maggiolino. Una 2 cavalli da mio fratello. Ci finì 3 volte in una risaia e non morì mai. Ci andammo in 4 in Marocco. E poi ancora Alessandro, la mia macchina delle zingarate, una Volvo Station Wagon, anche questa mancava effettivamente all'appello, che arrivava dalla Puglia, comprata da un amico di mio padre che dopo la pensione se ne tornava a casa. Ci abbiamo fatto 200 km in 4 anni, perché poi appunto di solito le macchine delle zingarate hanno sempre avuto una storia loro, prima che la storia che hanno avuto con noi quando l'abbiamo prese, della mamma oppure appunto dell'amico che torna, che va in pensione e torna in Puglia. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, che sono Pietro Lacorte, Margherita Ina, Tiziano Bonini, sempre e comunque, e soprattutto Andrea, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Roberto Ghielmi, abito a Lonate Pozzolo. La storia di domani è la mia e parla di 2 sentieri e un bivio. Questa è la mia storia e io sono qui.